Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. E buongiorno a tutti da Deborah Rosciani. Primi giorni dell'anno, tempo di buoni propositi, tempo di cambiamenti, ma per molti anche semplicemente tempo di cambi. Cambi di regalo, intendo. Sarebbe infatti proprio questo il momento più strategico. Superati Natale e Capodanno, ma prima dei saldi. Chi non è contento del regalo che ha ricevuto a Natale e lo vuole cambiare, ne approfitta proprio adesso. Ma vi dirò di più, perché sembra essere proprio una tendenza scientificamente studiata. Sembrerebbe essere proprio il 5 gennaio e quindi oggi la data in cui maggiormente si concentrano i cosiddetti viaggi di ritorno dei regali, in modo da non interferire nemmeno con la Befana. Negli Stati Uniti, per esempio, saranno messi in viaggio, lo scrive il Corriere della Sera, lo ha fatto in un lungo pezzo lunedì, prodotti per 30 miliardi di dollari, pari a 5,8 milioni di pacchi in movimento, con conseguenti danni, purtroppo, anche sul fronte dell'impatto ambientale. La metà dei pacchi non torna infatti sugli scaffali dei negozi a causa di piccoli danneggiamenti e quindi si producono pure tonnellate di rifiuti, allora tanto vale tenerseli in casa. E poi magari c'è anche, appunto, chi non restituisce, ma peggio direi, ricicla un regalo non troppo apprezzato ad una terza persona. E qui vi do anche un dato che si riferisce a quello che succede a casa nostra. Sarebbero oltre 3 milioni gli italiani che si stanno attivando per rivendere il cadeau non gradito. Allora, noi oggi vogliamo coinvolgervi subito su questo, in questa prima parte di Cuore e Denari. Nel primo quarto d'ora di puntata vi invitiamo a raccontarci all'800 24 0024, ma ci potete anche scrivere. Qual è il regalo che quest'anno intanto non vi è proprio piaciuto e siete tentati da restituirlo o regalarlo a qualcun altro? Insomma, o avete già riciclato, oppure, non lo so, state pensando appunto di cambiare, ma non avete il coraggio per non fare naturalmente anche un affronto alla persona che ve l'ha regalato. E comunque, insomma, se questa scelta anche da parte vostra matura proprio oggi, raccontatecelo componendo il nostro numero verde. Potete anche scriverci, come vi dicevo, al 349-238-6666. Se volete, facciamo anche una cosa in più, magari poi facciamo anche una carrellata sul nostro profilo Facebook o sul nostro sito, appunto sul nostro indirizzo, appunto di sul nostro profilo, appunto sul sito di Radio 24. Se volete mandarci anche la foto del più brutto regalo che avete ricevuto quest'anno e che volete restituire, se ce l'avete ancora in casa, magari mandateci anche una foto, così ci divertiamo un po' tutti. Siate sinceri però, tanto resta tutto tra di noi. Intanto noi possiamo partire con la nostra rassegna stampa. Partiamo come sempre con la borsa. Allora, abbiamo avuto un'apertura leggermente negativa per le piazze continentali. Adesso di nuovo il quadro sta cambiando. L'inizio del 2017 sembra davvero sotto i migliori auspici per le borse, soprattutto per Milano, che anche adesso mette a segno un rialzo dello 0,24%, un po' più prudenti le altre piazze, Londra più 0,14%, timidamente negative Parigi meno 0,10% e Francoforte meno 0,05%. Oggi va segnalato anche che a spingere un po' il mercato europeo, almeno per le piazze che sono in rialzo, contribuisce la chiusura della seconda seduta dell'anno di Wall Street in termini positivi, con il Dow Jones che è tornato ad avvicinarsi a quota 20.000 punti, un record che non si è mai visto e che sta carezzando da qualche tempo. E poi per un soffio anche lo Standard & Poor's non è riuscito a mettere a segno un nuovo record. Il tutto si è verificato nella giornata in cui la Banca Centrale Americana ha pubblicato i verbali della riunione dello scorso dicembre, durante la quale i suoi membri hanno parlato di incertezze notevoli legate alle politiche fiscali espansive promesse dal neopresidente eletto Donald Trump. Il rischio è che la Banca Centrale Americana sia costretta ad alzare i tassi più rapidamente del previsto se la nuova amministrazione e il Congresso approveranno tagli alle tasse e progetti infrastrutturali pensati per spingere la crescita. Sicuramente non ci sarà però questo aumento dei tassi nel meeting di fine gennaio, il prossimo sarà certamente rimandato, ma insomma intanto tre la Federal Reserve ne promette di rialzi dei tassi quest'anno, chissà che non siano appunto anche qualcuno in più. Intanto c'è un appuntamento importante sempre dagli Stati Uniti, domani arriva il dato sulla disoccupazione di dicembre. Andando a vedere i temi di Piazza Affari, segnaliamo il nuovo forte vistoso rialzo del nuovo banco BPM più 4 punti, UbiBanca più 2. E poi nella galassia Fiat tutti i titoli vanno bene, CNH Industrial più 1,52%, la stessa Fiat Chrysler in rialzo di un punto. Il gruppo sta ricevendo una serie di raccomandazioni positive da parte degli analisti, stamattina tocca a Mediobanca intervenire sul titolo con un giudizio buy, ci sono tutte le notizie che arrivano dagli Stati Uniti, dalla fiera dell'elettronica appunto in corso a Las Vegas e poi inizia il salone dell'auto di Detroit, tante promesse di sviluppo ulteriore per Fiat Chrysler e il titolo va bene. Va bene anche ricordare stamattina più 1,24, Unipol più 1,18, Azimut più 1,17, che abbiamo invece dall'altra parte, in negativo Buzzi Unicem meno 0,8, Luxottica meno 0,7, Atlantia meno 0,5, scende ancora STM meno 0,58%, Poste Italiane meno 0,39. Questa mattina riprende forti posizioni sul dollaro, l'euro a 1,05 e 0,8. Lasciamo la borsa, magari ci torniamo dopo. Andiamo a vedere cosa ci sarà nella calza della Befana. Allora, le calze della Befana quest'anno porteranno un carico record di giochi e giocattoli stranieri. Questa indagine l'ha fatta la Confartigianato, che ha calcolato che il 2016 segna il picco storico delle nostre importazioni di giocattoli. Ne abbiamo acquistati per oltre 1 miliardo di euro, con una crescita dell'1,8% rispetto a quanto non era accaduto nel 2015. È la Cina a fare la parte da leone con giochi e giocattoli per un valore di 470 milioni di euro, pari ad oltre il 45% del totale del nostro import di questi prodotti. A riempire le calze della Befana ci sono però anche la Francia, che ci fornisce prodotti per 141 milioni, la Repubblica Ceca, ma anche la Germania, i Paesi Bassi e Spagna. A tenere alta la bandiera del giocattolo italiano c'è però un piccolo esercito di 380 imprese nazionali, quasi 3.000 addetti, un fatturato di quasi 600 milioni di euro, che si battono sui mercati esteri dove esportano la qualità dei nostri prodotti. Allora, sempre a proposito di acquisti, regali e shopping, c'è una brutta notizia che riguarda invece per chi magari fosse in procinto di andare negli Stati Uniti, anche con la curiosità di visitare i grandi magazzini americani Macy's. Allora, a quanto pare però le vendite non stanno andando tanto bene e sono andate particolarmente male proprio in questa stagione natalizia, e tanto che la grande catena ha annunciato piani per eliminare in tutto 6.200 posti di lavoro. La società, molto famosa negli Stati Uniti, ha bene 730 punti vendita e ha identificato per una ravvicinata cessazione dell'attività il 68% dei negozi, dei quali aveva già programmato appunto la chiusura nell'arco dei prossimi 3 anni. E insomma, vendite che stanno soffrendo appunto, e di conseguenza anche ristrutturazione radicale per questo marchio storico appunto della grande distribuzione. E tra l'altro, naturalmente, anche questa notizia si è fatta sentire in borsa con il titolo, che è sceso molto a Wall Street. Allora, avrete letto peraltro proprio sui giornali di questa mattina la questione dell'inflazione e deflazione nella quale sarebbe caduta appunto il nostro paese. Ci sono molte indagini questa mattina su tutti i quotidiani e l'andamento dei prezzi al consumo avrebbe riportato le lancette dell'orologio del nostro paese indietro addirittura al 1959, quando eravamo in pieno boom economico e naturalmente le condizioni economiche erano molto diverse. E ci sono però, a parte i dati sull'inflazione questa mattina, anche altri dati Istat che ci raccontano che il potere d'acquisto delle famiglie italiane, quindi il reddito reale, sarebbe aumentato nel terzo trimestre dello scorso anno di appena lo 0,1%, ma comunque c'è il segno più, su base trimestrale, e dell'1,8% su base annua. La propensione al risparmio poi delle famiglie consumatrici è stata pari al 9,3% e questa appunto ci sembra lo stesso una buona notizia da dare, anche se molto spesso quando raccontiamo di queste percentuali so bene che ce le contestate, perché voi in realtà in casa vostra, guardando un po' le vostre attitudini al consumo e al risparmio, in realtà tutte queste notizie positive non sempre le vedete. In ogni caso raccontateci magari anche questo, un po' cosa racconta il vostro portafoglio in questo momento, mentre continuiamo ad aspettare anche le vostre segnalazioni a proposito del cosiddetto regalo di Natale di ritorno, e se avete deciso appunto quest'anno di aderire a questa maxi iniziativa del 5 gennaio, che negli Stati Uniti sarebbe appunto proprio il giorno prescelto per fare tutte quelle restituzioni di regali che non ci sono piaciuti a Natale. Intanto un ascoltatore ci segnala: ma Debora, le azioni Monte dei Paschi, sono un povero azionista, sono ancora sospese, lo sono dal 23 dicembre fino a quando non avremo le misure attuative appunto del decreto salva risparmio che è stato varato dal governo a fine anno per l'appunto, e quindi fino a quando non avremo indicazioni maggiori a proposito della cosiddetta ricapitalizzazione precauzionale da parte dello Stato, per cui deve avere ancora un po' di pazienza. Allora, tra poco torna come ogni giovedì il nostro spazio di Investire Informati. Oggi abbiamo deciso di fare questo approfondimento con un formato un pochino diverso, anticipandolo. Oggi parleremo del nuovo arbitro per le controversie finanziarie, perché da lunedì prossimo, dal 9 gennaio, gli investitori avranno la possibilità di rivolgersi gratuitamente a questa figura che decide secondo la legge le controversie appunto che riguardano i prodotti finanziari. Vi anticipo però anche gli altri argomenti dei quali ci occuperemo. Intanto Marco mi sta segnalando appunto l'arrivo di una telefonata e adesso sentiremo questo ascoltatore. Torneremo anche sulla vicenda delle banche risolte. È scaduto infatti il 3 gennaio il termine per presentare la domanda per il rimborso forfait dell'80% delle obbligazioni subordinate delle quattro banche appunto azzerate con il salvataggio di novembre 2015. Faremo il punto della situazione. Per quello che riguarda la parte di cuore, vi porteremo alle terme. Se avete in mente di andarci, non perdete la seconda parte del programma. Se state cercando un modo piacevole e naturale per rigenerarvi, se volete fare anche scorta di benessere, le terme sono anche soprattutto questo, quindi conosceremo l'effetto protettivo, preventivo e terapeutico dei diversi trattamenti che oggi ci vengono proposti dai centri termali. Se invece di andare alle terme decidete di fare una gita fuori porta con i vostri bambini, il nostro esperto ci fornirà regole e indicazioni su come farli viaggiare in tutta sicurezza. E allora, prima di partire con Investire Informati, Paolo, buongiorno. Sì, buongiorno, io investirei il parente che mi ha fatto questo regalo. Molto bene, allora ci racconti un po', è tanto brutto, è tanto orribile Paolo? È orribile, praticamente dico proprio telegraficamente un paio di pantofole vergognosamente a forma di draghetto con tutti questi peli che perdono. Cioè, poi infatti tu apri questo regalo, vedi un bel regalo grosso, no? Poi quando lo scarti fai questo sorriso falso e capisci. Senta, che... ma allora era un parente che non frequentava da tanto tempo e che non conosceva assolutamente i suoi gusti in termini di abbigliamento? È stato uno scherzo secondo lei? Non lo so, oppure... Ma diciamo che è una persona che sicuramente non ha molto gusto nel vestire. Adesso spero che non stia ascoltando la radio e quindi secondo me fa il paio con le pantofole. Senta Paolo, però sono veramente brutte. A parte questo, brutte. Lei che cosa fa? Le ricicla? Le restituisce? Se le tiene lì per ricordo? Ma io ho scritto del messaggio che le regalo, però cambio il messaggio dicendo pago io per cederle, quindi se venite ecco, do l'indirizzo in privato e vi pago. Guardi, se ce le vuole mandare le regaliamo noi, magari così prendiamo a mettere in circolo anche, vabbè, adesso a parte questo Paolo, grazie per il suo racconto, veda un po' lei quello che ne può fare. Il tema è che c'è qualcosa che è anche molto difficile da riciclare, no? Tante volte, per cui ecco, giustamente l'unica cosa che Paolo può fare è pagare per disfarsene. Grazie molte, c'è il traffico adesso, a tra poco. Cuore e denari. E allora, se intanto volete continuare a raccontarci un po' qual è il peggior regalo che avete ricevuto quest'anno e se avete intenzione o di riciclarlo o restituirlo, questo intanto è il giorno giusto per farlo, perché è il 5 gennaio, il giorno in cui si mette in moto tutto il meccanismo del riciclo ritorno del regalo non gradito. Siamo ancora a vostra disposizione, ma intanto apriamo appunto il nostro primo approfondimento di oggi, approfondimento di denari. Sono giorni che percepiamo ormai come nella coda del periodo festivo. Pian piano i ritmi iniziano di nuovo a farsi serrati, la gente inizia ad affollare le città, tornano anche alcune buone abitudini come la nostra rubrica del giovedì, che oggi dedichiamo ai risparmiatori non tanto contenti del loro rapporto o con un intermediario finanziario o che pure hanno fatto un investimento sbagliato e che si sentono addirittura traditi, per non dire truffati. Ci sono tanti organismi ai quali si possono rivolgere per far valere le loro ragioni, e allora questo è il tema che affrontiamo oggi nella nostra rubrica del giovedì. Investire informati. Che usanza sgraziata e grossolana restituire i regali che non ci sono piaciuti. Io sono perfettamente d'accordo con questo ascoltatore o ascoltatrice. Stefano mi pare che ci scrive, anch'io sono d'accordo con lei. Devo dire che anche fare delle battute sul fatto che ci è arrivato un regalo che non ci è piaciuto è terribile. Eppure Stefano, come lei può vedere anche dall'indagine che le abbiamo raccontato, c'è invece chi non ha nessun problema anche a ridarti indietro quello che non ha gradito e magari anche raccontarlo a tutti il fatto che ha ricevuto il regalo da parte di una persona che reputa non avesse buon gusto. Detto questo, le ciabatte lì a forma di drago sono anche un po' una cosa divertente, però qualche volta succede anche di peggio. Detto questo, Antonio Criscione, Il Sole 24 Ore plus 24, ciao. Buongiorno, buongiorno Deborah. Regali non graditi a Natale, a te com'è andata quest'anno? Devo dire, a me le persone che mi hanno fatto dei regali si sono sempre trovato in estremo imbarazzo, perché sono un tipo difficile, quindi davvero devo accettare questa cosa, quindi a me sei tanto simpatico, mi sembra una persona così per bene che riceve tutto volentieri. In regalo ha ricevuto di stare in redazione per un sacco di ore, perché in questi giorni come me in redazione siamo pochi e quindi dobbiamo spalmarci sul turno degli altri, ecco. Assolutamente. Per questo tipo di problema non possiamo andare dall'arbitro per le controversie finanziarie. Questa nuova figura istituita presso la Consob, Antonio, intanto segnaliamo che su Plus 24 ci saranno due pagine interamente dedicate a questo argomento. Sì, abbiamo cercato di dare un taglio operativo in modo da far capire come si presenta il ricorso, quali aspetti considerare, quale cose tenere presente, quindi anche un taglio molto operativo. Esatto, che è quello che ci piace di più anche qui a Cuore Denari. Allora, questa nuova figura, che in realtà non è l'unico arbitro che risolve le controversie finanziarie in Italia da molti anni, parliamo di queste modalità alternative per risolvere appunto le controversie finanziarie nello specifico, perché anche per queste si può andare in tribunale, ma prima ci sono tutte altre strade che si possono percorrere. Ce n'è appunto uno nuovo, parte, diventa operativo da lunedì prossimo, il 9 gennaio. E questa è la nuova figura che nasce in seno, Antonio, alla Consob, l'autorità, sì, che controlla il mercato italiano. Esatto, in realtà è un percorso cominciato un paio d'anni fa da un dialogo della Consob con le associazioni dei consumatori. Quindi si era visto il successo dell'arbitro bancario finanziario istituito da Banca d'Italia per i servizi strettamente bancari, e allo stesso tempo l'esperienza della Consob non era di un grande successo da questo punto di vista. Quindi è stato replicato un po' il modello dell'arbitro bancario finanziario, perché l'arbitro per le controversie finanziarie funziona molto in un modo molto simile all'arbitro bancario finanziario, e quindi si spera così di poter dare delle risposte più immediate alle esigenze degli investitori, perché uno degli elementi importanti di questa cosa è proprio quello della si dice della giustiziabilità, cioè ci sono dei casi minori per i quali non si andrebbe mai dal giudice, certo, però il fatto che c'è un arbitro gratuito magari spinge le persone a rivendicare un proprio diritto. Certo. Allora, intanto segnaliamo ai nostri ascoltatori che anche su questo argomento, se volete, potete intervenire in diretta all'800 24 00 24. Magari proviamo, visto che tu stai preparando la guida operativa di Plus 24, operativamente quali sono gli ascoltatori che possono essere potenzialmente interessati a fare ricorso a questo arbitro, Antonio, così magari li sollecitiamo, ci facciamo raccontare il problema che hanno e valutiamo se è il caso di indirizzarli là. Certo. Allora, innanzitutto bisogna dire una cosa: tutte le forme di risoluzione alternativa delle controversie presuppongono che prima si sia fatto un reclamo all'intermediario contro, certo, il quale, perché chiaramente è un modo alternativo e quindi devono aver tentato prima un dialogo, è quello l'elemento. E questo bisogna fare anche per l'arbitro per le controversie, e questa cosa significa che da lunedì potrà mandare il ricorso chiunque abbia già fatto un reclamo e abbia lasciato passare 60 giorni e non più di un anno dal reclamo. Quindi bisogna avere questa. Quindi lunedì chi semplicemente non è d'accordo non è che può partire con e il andare alla Consob, ma deve intanto esperire comunque la strada tradizionale che va fatta, poi magari ci torniamo. Poi voglio dire i motivi per i quali si può ricorrere relativamente ai servizi di investimento sono appunto il venir meno dell'intermediario a tutta una serie di obblighi legati alla diligenza, alla correttezza, alla chiarezza delle informazioni, alla trasparenza, che poi sono i casi che si verificano molto spesso nelle crisi. Quindi andiamo proprio al concreto. Un'obbligazione subordinata. Oggi scopriamo appunto di aver fatto un investimento di questo tipo, ma che non corrisponde al nostro profilo di investitore. Potrebbe essere tipicamente una questione della quale andarci a lamentare in Consob? Assolutamente sì. Poi bisogna tener conto una cosa: è vero che questo è l'arbitro promosso dalla Consob, il primo presidente in realtà sarà un funzionario della Consob, ma come si è visto per Banca d'Italia l'arbitro tende ad essere molto indipendente rispetto agli orientamenti poi anche della, dell'istituto di origine. In molti casi, per esempio, anche su elementi importanti l'arbitro di Banca d'Italia si è mostrato molto differente, anche ha adottato delle decisioni molto differenti da quelle che sullo stesso argomento aveva adottato Banca d'Italia. Quindi non è detto che la Consob, cioè che quest'arbitro è totalmente indipendente dall'organismo per il quale praticamente che lo promuove, però voglio dire non è Perché ritieni che sia stato importante specificare questo aspetto ai nostri ascoltatori? Perché la Consob è un organismo di vigilanza sul mercato finanziario. Molto spesso viene chiamato in causa come, voglio dire, magari perché si ritiene che la vigilanza non sia stata molto attenta, allora uno potrebbe ritenere che magari la Consob possa essere portata ad essere più indulgente con gli intermediari con i quali si ritiene che non abbia vigilato sufficientemente, infatti. Insomma, no? Quindi che non sia terza. In realtà l'arbitro, poi lo vedremo, ma dovrebbe essere terzo. Esatto, infatti lo vedremo alla prova dei fatti a partire dalle prossime settimane. Allora, ammettendo di avere un contenzioso con la banca, abbiamo già fatto reclamo regolare, la banca ci ha risposto, deve farlo entro 60 giorni, la risposta non ci è piaciuta e quindi decidiamo di andare appunto in Consob. Detto questo, qual è la modalità per fare questo ricorso? Intanto è gratuito? Assolutamente gratuito, ci sono dei fondi di finanziamento della Consob che copriranno i costi, mentre per l'arbitro bancario finanziario c'è un minimo anticipo di 20 euro, per l'arbitro per le controversie non c'è neanche questo. Non c'è neanche questo, la necessità di questo anticipo. La procedura è prevista tutta online, cioè nel senso che da lunedì partirà il sito dove l'utente viene guidato passo per passo a fare il reclamo e ci sono anche dei video che illustrano. Addirittura dei tutorial, come si chiamano tutorial, oggi. Esatto, per far vedere come fare il ricorso, per una sorta di guida al ricorso. E quindi ci sarà anche questo elemento in più. Per i primi poi due sono certa anche che si metteranno un po' in pista le associazioni dei consumatori, magari per aiutare i consumatori che non hanno ancora una grande confidenza con lo strumento, con internet e con il web. Infatti, per esempio, per i primi due anni, quindi fino al 2019, chi non si avvale di un'associazione e fa il reclamo in proprio potrà mandarlo con i mezzi tradizionali, per esempio per posta, voglio dire ecco, così. Quindi c'è un periodo di transizione un po' anche lungo, peraltro, perché due anni, quindi che consentirà anche di utilizzare canali tradizionali, quindi posta. Assolutamente, però voglio dire, loro comunque suggeriscono laddove possibile di utilizzare quello online, perché chiaramente dà anche maggiore tutela al cliente, perché voglio dire viene guidato nell'elaborazione e quindi il ricorso presumibilmente sarà fatto più correttamente. Allora sentiamo Michele da Milano, va, che subito ci sottopone una piccola conflittualità che ha con la sua banca. Michele, cerchiamo di capire se è la Consob l'organismo giusto al quale rivolgersi oppure l'altro arbitro, quello proprio istituito dalla Banca d'Italia. Benvenuto e buon anno intanto, grazie. Grazie altrettanto a voi, grazie per avermi richiamato. Niente, io praticamente ho diciamo che è un contenzioso che ormai ho da 15 anni con Montepaschi di Siena, perché praticamente mi hanno fatto stipulare 15 anni fa, quando ho acceso il mutuo, mi hanno fatto stipulare questo piano d'accumulo che si chiama For You. My Way For You, Michele. Allora, questa è una questione vecchissima, non so se è neanche il caso, la interrompo subito, non per essere maleducata, ma la conosciamo molto bene. Era praticamente un mutuo al contrario, in realtà. Più che un piano di più che un piano di risparmio, era proprio un mutuo pienamente sottoscritto che gli sottoscrittori dovevano rimborsare. Te la ricordi tu la questione, Antonio? Non precisamente, però... Non... Ecco, allora facciamo una cosa, Michele, ci scriva, perché la conosciamo peraltro, e mi ricordo che in passato me ne occupai a Salvadanaio, scatenando anche le ire della stessa banca. È stata forse una delle poche situazioni nelle quali qualcuno minacciò di querelarmi. A me non capita mai, perché penso di parlare di questi argomenti in maniera sempre piuttosto prudente e rispettosa di tutti. Detto questo, invece, quello è stato un caso proprio particolare. Però, detto questo, secondo te, ecco, si può utilizzare tutta questa serie nuova di canali per ritornare a dar battaglia su anche questioni così vecchie? Allora, dipende. In genere, i rapporti finanziari non è che si esauriscono, anche se non si guarda semplicemente il contratto quando è stato stipulato. Anche l'arbitro bancario fa così, cioè nel senso che magari abbiamo sottoscritto il mutuo 20 anni fa, però stiamo ancora pagando le rate, quindi su quel mutuo si può ancora intervenire. Se è un caso comunque tutto esaurito 15 anni fa, sicuramente ormai è fuori dalla portata, certo, dell'arbitro. Poi se un mutuo è una cosa di competenza dell'arbitro bancario finanziario, se è un servizio di investimento è l'arbitro per le controversie. Questo è un po', esatto, un po' questo è esatto, siccome è un prodotto ibrido per il quale non si riesce a dare una definizione, bisognerebbe capire. Guardi, ci scriva, lo dica l'ascoltatore appunto, e eventualmente ritorniamo sulla questione che ancora tiene in sospesa appunto molti risparmiatori in Italia. Intanto vedo che tra le situazioni appunto di conflittualità che gli ascoltatori ci segnalano sono, per esempio, sempre hanno a riferimento Monte dei Paschi, c'è chi si lamenta del fatto che ha aderito a tutti gli aumenti di capitale che sono stati fatti negli ultimi anni, ma oggi si ritrova in mano nulla. Detto questo, a me spiace un po', non voglio infierire ovviamente sugli ascoltatori, ma stiamo parlando talmente da tanto tempo della situazione di difficoltà di Monte dei Paschi che forse essersi liberati in tempo delle azioni era l'atteggiamento più prudente da seguire. Ci sono pochi arbitri che possono intervenire a questo punto, Antonio. Beh, voglio dire, bisogna dire che un investimento è sempre un elemento di rischio, comporta un elemento di rischio, sia che sia un investimento mobiliare come nella sottoscrizione di azioni, di obbligazioni, eccetera, ma anche se si si apre un negozio, voglio dire. Certo. È chiaro che bisogna dimostrare che l'intermediario ci ha dato un prodotto che non era adatto a noi. Esatto, ci torniamo, però abbiamo tutta la seconda parte di Cuore Denari e ci raggiunge anche l'avvocato Canafoglia tra poco. Cuore e denari. Allora, non è neanche partito completamente l'anno, non abbiamo neanche esaurito le feste, già stiamo cominciando un po' a stressare i nostri ascoltatori con tutte le faccende finanziarie più spiacevoli che hanno contraddistinto gli ultimi mesi, ma d'altronde dobbiamo fare questo ritorno alla realtà, prima lo facciamo meglio è, così ci togliamo il problema. Allora, intanto è rimasto con noi Antonio Criscione, Plus 24 e Il Sole 24 Ore, vi stiamo spiegando che cosa succede da lunedì prossimo, da quando diventa operativo il nuovo arbitro per le controversie finanziarie. Ce ne sono già operativi, questa figura è nuova, nasce in seno alla Consob, l'organismo appunto di controllo dei mercati finanziari, e riguarderà tutte quelle controversie che hanno come oggetto proprio servizi di investimento. 800 24 00 24 il numero verde per le vostre domande, se avete qualche contenzioso in corso con il vostro intermediario finanziario e magari tutte le strade che avete provato a percorrere non sono state utili, perché prima bisogna fare sporgere un reclamo formale, no Antonio? Esatto. Ribadiamolo. Dopodiché da lunedì c'è questo organismo, ma ci sono anche gli altri, e magari poi rifacciamo una carrellata di tutte le possibilità di conciliare che già esistono. C'è anche quello appunto della Banca d'Italia, operativo da un po', peraltro spalmato su tre No, arbitri, se non mi ricordo male, in no? realtà proprio da qualche giorno, da qualche settimana, dal perché 20 ce n'era una a Milano, dicembre, una Roma, una Napoli, se non ricordo male, adesso invece dal 20 dicembre se ne sono aggiunti altri 4, per cui uno a Torino, uno a Bologna, uno a Bari e uno a Palermo, quindi saranno 7 come questo di Consob, invece, diciamo, come parte localizzazione. Con un solo, parte con un solo collegio a Roma, immagino. Esatto. Poi, tra l'altro, tutte le come dire, domande si possono fare online, per cui è indifferente che ci sia anche un ufficio, come dire, fisicamente presente da qualche parte. Allora, avvocato Corrado Canafoglia, Unione Nazionale Consumatori, buongiorno, buon anno. Buongiorno a lei, buon anno a tutti quanti voi. Allora, è stato a lungo il nostro ospite di riferimento. Ah, peraltro, avvocato Canafoglia, le dico che c'è un'ascoltatrice, Emilia, che ci scrive: buongiorno Deborah, qui a Falconara sta nevicando. Lei sta a Senigallia, giusto? Sì, a Senigallia, sono qui davanti al mare. E non nevica. Stava nevicando. Si è un attimo un po' così, si è un po' calmato. Si è un po' calmato, meno male. Allora, senta, metta bene un po' la bocca vicino alla cornetta, perché l'abbiamo persa per un po'. Perché abbiamo interpellato anche stamattina l'avvocato Canafoglia, perché è scaduto il 3 gennaio il termine per presentare la domanda per il rimborso forfè dell'80% delle obbligazioni subordinate delle 4 banche che erano state appunto azzerate con il salvataggio del novembre del 2015. Le ricordate, le abbiamo ribattezzate le 4 banche risolte con questo nuovo termine nel gergo finanziario che abbiamo imparato appunto a conoscere. Al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, che gestisce il Fondo di Solidarietà per indennizzare i risparmiatori delle vecchie Banca Etruria, Banca Marche, Cari Ferrara, Cari Chieti, sono pervenute circa 14.000 pratiche, considerando anche numerosi casi di cointestazioni, acquisti multipli o successioni, e al 30 dicembre ne erano state liquidate 2.648 per 35 milioni. Quindi hai voglia ancora ad indennizzare. Il Fondo Interbancario diciamo ogni tanto periodicamente pubblica il numero delle pratiche appunto che vengono liquidate. Va segnalato che circa il 90% dei rimborsi già riconosciuti è per un importo inferiore ai 20.000 euro. Allora, avvocato Canafoglia, quanti ne ha gestiti lei seguendo magari i risparmiatori che hanno avuto bisogno dei suoi consigli e indirizzandoli proprio al Fondo Interbancario per avere questi indennizzi? Allora, per quanto ci riguarda, noi abbiamo seguito oltre 200 obbligazionisti subordinati che avevano diritto alla liquidazione forfettaria. Quindi questi sono i numeri e principalmente siamo concentrati su Banca Marche. Sì. Quindi pochissimo sulle Etruria, perché in questa zona l'Etruria ha martellato solo in un paesino, ma la maggior parte è tutta Banca Marche. Parlo della regione Marche. Certo, infatti. No, tra l'altro stavo anche considerando il fatto che molte associazioni dei consumatori si sono lamentati anche di questa procedura, sono state riconosciute solo le briciole, eccetera. Devo dire che però in realtà in un anno poi si può contestare tutto, si può ritornare a richiamare la cattiva gestione appunto di queste 4 banche, le modalità con cui queste obbligazioni sono state collocate presso i risparmiatori. Detto questo, però, nel giro di un anno la procedura è partita, avvocato Canafoglia, ma c'è proprio tutto da buttare di tutto questo? Allora, per quanto riguarda gli obbligazionisti subordinati, coloro che avranno la possibilità di percepire l'80%, ovviamente non c'è da buttare il tutto, perché chiaramente costoro almeno l'80% dovrebbero portare a casa. Dovrebbero, perché andavano liquidati in tempi rapidi, invece si è prolungato, ma sembra almeno fino a giugno, il pagamento di queste subordinate. Ma qui, diciamo, qualche mese si aspetta rispetto allo spauracchio di non prendere. Cioè, chi aveva investito in obbligazioni argentine ha aspettato più di 10 anni per riavere qualcosa. Esattamente. Quindi da questo punto di vista diciamo che ovviamente possiamo essere, c'è una nota positiva. Il problema è il resto, cioè tutti quelli che sono rimasti fuori come obbligazionisti subordinati e che dovranno rivolgersi all'arbitrato, e continuiamo a dire gli azionisti, che sono fuori, sono tantissimi. Allora, avvocato Canafoglia, noi la sentiamo male, provo a richiamarla con Marco Lombardo perché la sento un po' a tratti, invece i messaggi che lei ci fornisce appunto sono molto importanti appunto da trasmettere ai nostri ascoltatori. Antonio, e me lo anticipavi tu e forse questo vale la pena raccontare ai nostri ascoltatori, che da lunedì, oltre a diventare operativo questo nuovo arbitro appunto per le controversie finanziarie presso la Consob, Consob comunque in qualche maniera prenderà anche in considerazione tutta la partita aperta delle obbligazioni, appunto degli obbligazionisti subordinate delle banche risolte. In che modo? Allora, bisogna dire questo, che per le banche risolte è prevista una procedura di arbitrato ad hoc presso l'ANAC, l'autorità anticorruzione, per la quale non ci sono ancora i decreti attuativi. Poi però, ricorderemo anche chi può andare a fare l'azione appunto all'ANAC, per quale motivo, che tipo di requisiti ha e per quale motivo non ha fatto la richiesta al fondo interbancario di indennizzo forfettario, appunto. Certo. E quindi c'è questo aspetto dell'arbitro, quello lì. Però è anche vero che non è detto che sia una possibilità esclusiva. Secondo me si porrà molto urgentemente a questo nuovo arbitro l'esigenza di capire se possono intervenire anche su quegli altri casi degli, appunto, come diceva l'avvocato Cannafoglia, degli azionisti e degli altri obbligazionisti che non hanno i requisiti per entrare nel ristoro forfettario, e quindi bisognerà vedere come si pronunceranno. Avvocato Cannafoglia, mi faccia un po' sentire la qualità del collegamento molto meglio adesso meglio, sì. Molto meglio. Senta, allora vogliamo ricordare a beneficio degli ascoltatori che avessero perso qualche puntata delle nostre precedenti su questo argomento, quali erano gli obbligazionisti che potevano fare richiesta dell'indennizzo forfettario al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, che caratteristiche dovevano avere? Erano due criteri. Innanzitutto un patrimonio mobiliare inferiore ai 100.000 euro fino al 2015. Il secondo criterio è il reddito complessivo per il 2014 ai fini IRPEF non superiore ai 35.000 euro. Quindi chi stava dentro uno di questi parametri aveva la possibilità di accedere all'indennizzo diretto. Quindi fuori da questi parametri, ovviamente, può andare soltanto all'arbitrato, che ancora non sappiamo bene appunto come dovrebbe funzionare. Che cosa aspettiamo per sapere come funzionerà questo arbitrato? Ancora abbiamo un provvedimento attuativo. Una delle note negative che noi abbiamo sottolineato è proprio questo, cioè bisognava mettere in condizione gli obbligazionisti subordinati di scegliere tra l'arbitrato e l'indennizzo diretto, perché non dimentichiamoci che chi ha scelto l'indennizzo diretto ha comunque non ha la possibilità di prendere il 20% di quello che era il capitale ovviamente investito, dicendo. Però torniamo a ripetere, sull'80% in una situazione di crisi come questa, tutto sommato, possono ritenersi soddisfatti nel momento anch'io, per carità, è stato un momento nero, un sicuramente bagno di sangue, però rispetto ad altri. No, perché voglio dire, c'erano anche persone che avevano investito tutto il loro risparmio in un'unica obbligazione subordinata, per cui dall'esserselo visto azzerato a vedersi ritornare indietro un rimborso forfettario dell'80%, mi sembra che sia veramente, Antonio. Decisamente. Poi bisogna dire che è previsto un requisito come quello del reddito relativo ai fini IRPEF, sapendo che, come dicono gli studiosi del fisco, l'IRPEF è un reddito sul lavoro dipendente, quindi voglio dire una penalizzazione dei lavori dipendenti rispetto ad altre categorie che magari riescono più facilmente a sfuggire al fisco rispetto ai lavoratori dipendenti. Quindi, quando, il malizioso Antonio Criscione. No, quando io in realtà da lavoratore dipendente, quando sento fissare il criterio dell'IRPEF, ho sempre un po' un attacco d'orticaria. Ti viene un po' il prurito, ti viene un po' l'attacco pruriginoso. Allora, senta, avvocato Cannafoglia, adesso sentiremo anche per Antonio invece un racconto di una questione appunto aperta con la banca da parte di Carlo da Trento. Ma avvocato Cannafoglia, lei che cosa ne pensa di questo nuovo arbitro per le controversie finanziarie che sarà operativo da lunedì appunto presso la Consob? E secondo lei ci sarà modo appunto di bustare anche a questa porta per tutte le situazioni irrisolte relative appunto agli obbligazionisti subordinati delle quattro banche risolte? Proverete anche questa strada a disturbare anche lì? No, disturbare, nel senso a chiedere anche... Esatto, qui il problema è questo. Il decreto ha posto dei vincoli molto precisi, tra i quali quello di non poter accedere tramite un'azione civile nei confronti di chi è stato responsabile, di chi è stato... Invece, questo è il problema di fondo che noi abbiamo. Quindi tentare a spingere i soggetti truffati, perché tali sono, in azioni così proditori, in azioni fantasiose, incomincia a diventare molto particolare, molto pericoloso, perché poi si pagano le spese legali, quindi al danno la beffa. In questo momento noi stiamo preparando un esposto su quello che è stata la vigilanza molto pesante che a fine gennaio verrà fuori, e tireremo fuori delle lei carte. Lei lo sta preparando da un sacco di tempo, esatto. E abbiamo raccolto tanti documenti, testimonianze, atti, e a questo punto speriamo, a quel punto, al di là dei tribunali, che per un avvocato chiaramente è il pane quotidiano, però speriamo che ci sia un intervento legislativo che riporti un riequilibrio tra chi? Tra gli azionisti e gli obbligazionisti, quelli che non vanno all'80% delle quattro banche risolte, o dei truffati come li chiamiamo, rispetto invece a tutto quello che accade nelle altre banche, l'ultima cronologicamente Monte Paschi. Certo. Antonio, allora molti dei risparmiatori coinvolti nella risoluzione appunto delle quattro banche, oltre ad essere obbligazionisti, lo abbiamo ricordato più volte, erano e sono anche ancora tuttora azionisti di queste banche. Molto spesso hanno sottoscritto questo investimento azionario su suggerimento della banca, un po' pilotato naturalmente, che diceva: ti concedo un mutuo, ti concedo un prestito a patto che però tu contestualmente appunto sottoscriva anche queste azioni. Questo potrebbe essere un buon presupposto per andare la Consob a denunciare queste situazioni. La Consob potrebbe, con questo nuovo arbitro, proprio gestire situazioni di questo tipo? Beh, io comunque continuerei ad evitare l'espressione la Consob, perché dobbiamo l'arbitro dire, per le controversie finanziarie, ma perché anche quelli della Banca d'Italia si chiamano così, quindi l'arbitro bancario finanziario, ecco, l'ABR. Potremmo chiamarlo l'arbitro bancario e l'arbitro finanziario in modo più... Ah, ecco, così ci chiariamo. In modo perfetto. Più snello. L'arbitro finanziario potrebbe essere la figura giusta per poter anche prendersi carico di queste situazioni? Certamente sì, perché voglio dire, tutti i servizi di investimento sono di competenza di questo arbitro, e oltretutto appunto qui veniamo a quegli obblighi di trasparenza, di correttezza di cui accennavo prima, che sono gli elementi sui quali l'arbitro può poi pronunciarsi. Allora, intanto ritorniamo invece, rimanendo per un attimo fuori dalla questione delle quattro banche risolte e gli obbligazionisti subordinati, ritorniamo invece all'attività dell'arbitro finanziario. Sentiamo se Carlo da Trento può appunto fare ricorso a questa figura per risolvere la questione della quale non è molto contento. Carlo, benvenuto, buon anno. Sì, buon anno a voi. Ci dica. Sì, praticamente il mio caso, penso, molto semplice. Ho mandato tramite raccomandata a fine dicembre 2015 la richiesta di disinvestimento della gestione patrimoniale. Non so se posso dire con che banca, comunque. Se, guardi, io dico sempre una cosa, che se non è una parolaccia da noi si può dire no, tutto. No, ok. Anche se qualche volta ci sono sfuggito. Vabbè, insomma, la grande banca. Credit private. Vabbè, insomma, voleva quindi disinvestire da una gestione patrimoniale con loro. Sì. Che cosa è successo? Totale. E quindi io ho mandato la raccomandata, poi sono stato anche in vacanza. Niente, non ho sentito niente, ho visto poi la liquidazione fatta intorno a inizio febbraio, quindi hanno tenuto la gestione ferma, senza liquidare, per circa un mese. Il valore è calato di 4 punti percentuali, quindi io poi ho scritto alla banca penalizzato. Che mi ha liquidato. Sì, mi ha liquidato a febbraio, e quindi ho già fatto la mentela, il reclamo con la banca, e loro mi hanno risposto che non mi devono niente. Ho rifatto un nuovo reclamo, diciamo, sempre alla banca, perché non mi soddisfaceva la risposta, elencando tutti i punti e dicendo che non possono tenere un mese e mezzo i soldi senza disinvestire, perché certo. Poi la da prospetto patrimoniale... lei si era sicuramente anche divertito ad andare a rileggere magari il prospetto informativo, magari questi tempi erano indicati o no, non ne ha trovato indicazione da nessuna io parte. Io non sono riuscito a trovare, ma mi ricordo che avevano detto circa una settimana, certo. Anche perché un conto è la liquidazione della gestione in conto per delle procedure fiscali, un conto è gli asset che mi vengono tenuti un mese e 10 giorni investiti e non liquidati, certo. Cioè il concetto è, può anche andare sul conto corrente della gestione, ma non che mi per tutto questo investiti. Tempo, certo. Carlo, allora, certo che Carlo potrebbe essere il primo risparmiatore che fa il ricorso all'arbitro finanziario, perché lui il reclamo regolare l'ha già sporto, anzi ne ha fatti ben due, direi che ha materiale più che a sufficienza per inaugurare questo nuovo tavolo. Assolutamente. Il tipo di controversia è assolutamente tipica per un tavolo di questo tipo. Perché voglio dire, si tratta di un obbligo di diligenza della banca, il fatto se protegge tra i tempi oltre il necessario, e poi si tratta, voglio dire, di ha presentato il ricorso, è rimasto investito in questo tempo ed è stato penalizzato. Cioè, certo, voglio dire, non si fanno dei ricorsi per questioni di solo principio, e del resto se ci avesse guadagnato probabilmente non l'avrebbe fatto, ma è giusto, voglio dire, non è un appunto, ora ha tutto il diritto di lamentarlo come cosa. Quindi il reclamo sicuramente non sarà più vecchio di un anno, quindi assolutamente lunedì si può collegare al computer e fare la prima. Carlo, ci faccia sognare, ci faccia sapere appunto se sarà effettivamente il primo risparmiatore appunto ad adottare questa nuova opportunità. Allora sentirei Matteo da Pescara, che invece torna sulla questione degli obbligazionisti subordinati, mi sembra, no Matteo? Buongiorno. Buongiorno. Sì. Riguardo, io vado un po' controcorrente. Secondo me tutta la storia è partita nella maniera errata. Su questo guardi, tutto... non ci piove proprio. Se partiamo dalla gestione delle banche, si figuri, torniamo indietro a Noè. Sì, ma anche le definizioni che vengono usate. Allora, quelli non sono risparmiatori, ma sono investitori. Perché se io vado in banca e faccio un'obbligazione, sono un investitore. Vabbè. In più, se io sottoscrivo un'obbligazione e non ho letto quello che ho scritto, mi sono fidato, è colpa mia, non è colpa degli altri. Se ritengo di essere stato truffato, vado in procura e sporgo denuncia per truffa. Al termine di un regolare processo, se la truffa viene accertata, mi restituiscono i soldi. Non che di default, in base ai redditi o ad altro, riprendo l'80% su un investimento, quindi su un qualcosa di rischioso. Non ho letto il MIFID, non ho letto la profilazione. Matteo, lei ha ragione. Allora, per molti versi le assicuro che il suo ragionamento è totalmente condivisibile. Detto questo, però, se andiamo a guardare la platea delle persone che hanno investito in queste obbligazioni subordinate, purtroppo non abbiamo esattamente a che fare con una massa di speculatori, come le intende lei, di investitori consapevoli, no, avvocato Canafoglia? Perché non è tutto sbagliato il ragionamento che Matteo sono fa. Sono pienamente d'accordo con lei, ho ascoltato con attenzione quello che diceva il signor Matteo. Non è così, nel senso, ci sarà stato anche sicuramente qualche investitore, nel senso di persona attenta, ma la maggior parte dei soggetti che si sono avvicinati alle obbligazioni e dalle azioni erano persone anziane. Noi abbiamo casi di gente di 90 anni, che hanno investito tutti i loro risparmi perché consideravano la banca il punto di riferimento, soprattutto senza nessun problema, perché se avessero voluto fare speculazione andavano a investire in azioni quotate in borsa. C'è stato un difetto di comunicazione, attenzione, ma il vero problema grosso, quantomeno in alcune banche, in particolare Banca Marche, ma questo anche per le altre tre banche, è stato un problema che non è stato reso edotto il risparmiatore azionista obbligazionista di quello che era la situazione dentro la banca. Infatti. Allora Antonio voleva intervenire anche su questi punti, molto delicati peraltro. Sì, bisogna dire che noi su questa questione delle banche in particolare ci troviamo di fronte a un vero e proprio cambiamento di scenario, cioè nel senso che è vero che quello che dice l'ascoltatore si tratta di un investimento, però fino a qualche anno fa noi partivamo dall'idea che la banca era la solidità assoluta. Tra l'altro devo dire che la posizione di Matteo è condivisa anche da molti ascoltatori che ci stanno scrivendo e chiamando, ma ribadisco, non è del tutto giudicabile negativamente la posizione di Matteo. Detto questo, però i risparmiatori con cui abbiamo a che fare sono quelli che sono. No, assolutamente. Per esempio, se uno investe aprendo un negozio e poi il negozio va male, il negozio fallisce, voglio dire, i soldi si perdono. Negli investimenti il rischio c'è. E anche da dire che per alcune delle persone con le quali gli istituti bancari hanno avuto a che fare per il passato, non c'era l'idea di fare un investimento a rischio, si contava sulla solidità della banca con la quale si aveva a che fare quotidianamente, certo, e magari da tanti anni, con rapporti personali consolidati. Basti ricordarci cos'è successo qualche anno fa con le famose polizze vita che avevano il rendimento agganciato a Lehman Brothers, e anche in quel caso allora possiamo parlare sicuramente di risparmiatori. Molti avevano sottoscritto la polizza alle poste, chi mai pensa che alla posta si sottoscriva una polizza vita che ha il rendimento agganciato ad un prodotto finanziario, eppure quello era, ma li dobbiamo condannare tutti, non era stato spiegato bene il prodotto, nessuno mai avrebbe pensato che nel giro di un anno fallisse quella banca trascinando con sé anche i risparmi dei poveri italiani. Detto questo, volevo aprire, adesso stiamo quasi chiudendo, un ultimo fronte, Antonio, su Popolare Vicenza e Veneto Banca, perché dalla settimana prossima avremo notizie anche sui risparmiatori che hanno azioni di queste banche che se le sono viste praticamente quasi azzerare nel corso degli ultimi due anni. Certo, e per loro è previsto, almeno così è l'idea che era stata lanciata già da qualche tempo, l'idea di una conciliazione paritaria, che è un'altra forma di risoluzione alternativa delle controversie. Queste peraltro non sono banche risolte, ma anzi sono banche che si sposeranno a breve, che hanno bisogno di pure requisiti di capitale molto alti, però... Certo, e quindi voglio dire, da questo punto di vista cercheranno di mettersi d'accordo con i rappresentanti degli azionisti per un ristoro. La somma di cui si è parlato, di cui abbiamo letto... Non è proprio l'80%, è molto più bassa. Non è l'80%, anche se si parla del 10-15% del prezzo originario, anche che però, voglio dire, un multiplo di quello attuale. Esatto, infatti. Beh, seguiremo questa storia dalla prossima settimana anche molto attentamente. Intanto a te Antonio grazie, vi segnalo grazie le pagine appunto di Plus 24 di sabato sull'arbitro per le controversie finanziarie, magari con un parallelo con tutti gli altri arbitri esistenti. Avvocato Canafoglia, qualche ultimo messaggio per i nostri ascoltatori da parte sua? Ma il messaggio è molto chiaro, chi spera in questo periodo di poter aver attuato la strategia della candela, cioè dell'autospegnimento, se lo può dimenticare. Qual è la teoria della candela? La tecnica dell'autospegnimento della candela è questa: la candela, dopo un po' che non ha più ossigeno, piano piano si consuma da sola. E questa è un po' la tecnica che si è attuato nei confronti soprattutto degli azionisti. In realtà gli azionisti sono ferociti e arrabbiati che mai. E ripeto, quello che diceva Matteo potrebbe essere vero, non nel caso delle quattro banche, non in particolare in quello di Banca Marche. Quindi nei prossimi giorni, nel prossimo mese ne vedremo delle belle. Molto bene, allora siamo pronti a partire. Esatto, lei però ce lo faccia sapere in anteprima, ci dia l'esclusiva delle sue iniziative. Nessun problema. Grazie. Nessun problema. Allora, buon anno a tutti e grazie altrettanto ancora. Avvocato Canafoglia. Sono le 11:30, andiamo a raccontarvi la giornata di borsa, poi cambiamo completamente argomento, ci rilassiamo alle terme, soprattutto prendiamo la macchina, guidiamo se abbiamo a bordo i nostri bambini, tutte le precauzioni da adottare appunto per guidare in totale sicurezza. Fineco, la banca che semplifica la banca, vi presenta Cuore e Denari. Allora, rilassiamoci adesso un attimo perché la prima parte della trasmissione ci ha infervorato, come spesso capita quando parliamo naturalmente di risparmio, di truffe finanziarie, di quando ci sentiamo gabbati dal nostro consulente di fiducia, dal nostro intermediario. Insomma, veramente la cronaca italiana ne ha raccontati fin troppo spesso di questi casi negli ultimi anni, probabilmente non abbiamo ancora finito perché ogni anno ci presenta la sua sorpresa. Quindi, cambiando radicalmente argomento, di che cosa parliamo? Di acqua, fuoco, aria e terra. Non parliamo di segni zodiacali naturalmente, ma di natura al 100% al servizio del nostro benessere e della nostra salute. Perché oggi vogliamo parlare di terme, per chi di voi le ha già provate e per chi di voi invece sta accarezzando l'idea di farlo prossimamente. Con noi questa mattina il professor Fausto Bonsignori, specialista di idrologia medica e clinica termale, direttore sanitario di strutture termali. Professor Bonsignori, buongiorno e buon anno. Buongiorno a tutti voi, buon anno. Vediamo l'ora di ascoltarla naturalmente, perché solamente le sue parole avranno già un effetto terapeutico su di noi. Grazie, perché ci farà da cicerone questa mattina, ci spiegherà i meccanismi d'azione delle acque termali, le loro differenze, anche le differenze nei modi di utilizzarle, ma non parleremo solo di acqua, ma anche di, come vi anticipavo poco fa, fuoco, aria, terra e quindi, dicevamo, professor Bonsignori, natura al 100%. Sì. È proprio così, direi che è proprio questo il termine su cui dobbiamo riflettere. Le terme in realtà sono una medicina naturale per eccellenza, perché noi utilizziamo mezzi terapeutici termali, che sono appunto mezzi che derivano dall'ambiente naturale, l'acqua. Cosa c'è di più naturale dell'acqua? In questo caso però utilizziamo acque che hanno proprietà farmacologiche, certo. Acque termali che hanno proprietà curative, farmacologiche. I fanghi, che non sono altro che la commistione di queste acque con dell'argilla o dei materiali organici, senza dimenticare che poi alle terme si fanno anche delle terapie cosiddette climatiche. In modo particolare si utilizzano microclimi, quindi particolari ambienti con caratteristiche caldo-umide molto efficaci per la nostra salute, o anche si utilizza l'azione terapeutica del clima in senso generale, come per esempio si fa in talassoterapia, quindi con il clima marino. Ecco, quindi niente di più naturale che le cure termali. Infatti, è certo. è una vera cura termale. Oltretutto ha anche il vantaggio di essere comprovata dall'evidenza clinica, ma da studi scientifici anche recenti. Certo, alle terme per stare bene o per tornare a stare bene, ma ci piace sottolineare, professor Bonsignori, che le terme sono a tutti gli effetti il luogo in cui si pratica la medicina del benessere, che possiamo proprio dirlo, è l'anticamera della medicina preventiva, no? Sì, è proprio così. Anche questa è un'affermazione molto corretta ed efficace, perché noi sappiamo che tutte quelle che sono gli stili di vita, e non solo, ma anche le misure per la promozione della propria salute, sono misure che poi sfociano decisamente nella medicina preventiva, una medicina che ormai è essenziale per quanto riguarda la vita, la salute del singolo, ma anche la salute collettiva. Pensate che ormai sappiamo tutti che anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità non identifica più il concetto di salute soltanto come l'assenza di malattia. In realtà si pensa e si vuole il raggiungimento del benessere psicofisico. Ecco, quindi in questo campo nasce e lavora la medicina del benessere, che è una medicina importante, sono medicine che hanno una base polispecialistica e che agiscono proprio determinando tutta una serie di comportamenti, stili di vita, azioni per promuovere la propria salute. Quindi il soggetto diventa anche un elemento attivo per migliorare la propria salute, conservarla e migliorarla. Certo. Adesso andremo naturalmente a fare delle analisi approfondite, anche prendendo a spunto quella descrizione che abbiamo fatto all'inizio tra acqua, fuoco, aria e terra, appunto. Certo. Ma volevo chiederle, professor Bonsignori, noi in Italia veramente abbiamo una rete di strutture termali eccezionale. Adesso, senza voler naturalmente fare pubblicità a nessun tipo di struttura, perché non è nostro ovvio, costume ovvio, ovviamente, però mi pare di capire che l'Italia sia particolarmente vincente da questo punto di vista, oppure così è un po' una presa di posizione patriottica che non ha senso? No, la realtà siamo un po' i leader nel termalismo mondiale per tanti versi, sia come ricerca scientifica e sia come proposte, perché l'Italia di fatto è terra di terme. Basti pensare che nel nostro bel paese ci sono circa 380 centri termali, uno più uno meno, 380 centri termali che hanno delle caratteristiche specifiche, sono controllati, che hanno una qualità di acque e di cure importante. E non sono soltanto nelle città cosiddette termali, le più conosciute, che come dicevamo prima non nominiamo per non fare pubblicità a nessuno, certo. Ma ci sono anche tanti piccoli, anche in tanti piccoli paesi, quindi nella nostra Italia ci sono tantissime strutture alle quali possiamo rivolgerci. Ecco, questo è una ricchezza, un patrimonio, certo, non soltanto sanitario, ma anche culturale e storico molto esattamente, importante. Esattamente, infatti. Allora, intanto 800 24 00 24, anche per questo argomento questa mattina potete farmi compagnia intervenendo al nostro numero verde. Adesso vi faccio, allora, prima di andare a fare questo viaggio per elementi naturali, faccio subito fare una domanda ad un'ascoltatrice, professor Bonsignori, poi andremo appunto a caccia di elementi naturali nelle strutture termali del nostro paese. Mariuccia, benvenuta. Buongiorno signorina Deborah, sono affezionata cliente da tantissimi anni, ma riesco a parlare raramente. Ah, ecco, cliente della radio, dice lei, o no, delle terme? Sua personale, addirittura. Sua personale. Ma che bellezza, ecco. Mariuccia, come mi fa iniziare bene l'anno con questa, sì, carezza al cuore che è, le assicuro, graditissima. Guardi, minimo sono 10 anni che l'ascolto. E infatti io dal 2004 che sono qua, pensi, ecco, un po' lei allora. Idem, solo che io ho il doppio della sua età. No, non credo il doppio, perché anch'io ne ho un bel po', però Mariuccia la sento molto squillante, frequentatrice delle terme? No, io sono reduce da 2 mesi da un'operazione alla valvola mitralica. Uh-huh. E siccome avevo in programma le terme prima che succedesse tutta questa cosa, volevo sapere che in questo caso se le terme come sono consigliabili, cosa devo fare e come mi devo comportare. Grazie Mariuccia. Professor Bonsignore, io le consegno questa nostra cara ascoltatrice, che cosa le possiamo suggerire di fare? Deve rinunciare o no? Direi assolutamente no. Possiamo consigliare alla signora Mariuccia di andare tranquillamente alle terme, perché non ci sono controindicazioni in base all'intervento cardiochirurgico che ha subito. Naturalmente non devono essere in atto delle fasi di scompenso cardiaco. Se fosse in atto il compenso cardiaco avanzato, poi si parla del secondo, terzo grado NIA, che sono termini tecnici, ma insomma ci si può intendere dicendo se c'è in atto uno scompenso cardiaco avanzato, allora ci vuole cautela. Ma credo che basti un semplice controllo con il medico. Più controllati di quelli come centri, esattamente. Infatti, tutte le terme hanno o il direttore sanitario o un collaboratore, per cui la signora Mariuccia può essere coccolata, assistita e può dedicarsi tranquillamente a fare le sue cure termali. Poi Mariuccia, visto che siamo diventate così amiche, adesso se vuole andarci con me, io sono ben contenta appunto di seguirla. Detto questo, cominciamo intanto il nostro viaggio per elementi naturali. Ma da quando ci sei tu? Tutto questo non c'è più. Acqua azzurra, acqua chiara. Allora, professor Bonsignore, iniziamo proprio dall'acqua. Facciamo una panoramica semplice e chiara. Raggruppare le acque in famiglie e dire quali indicazioni. Le assegno questo compito. Quali disturbi si possono curare con le acque termali? Ma allora, le acque termali sono tantissime. Si potrebbe dire addirittura che ogni centro termale ha una sua caratteristica acqua termale, però naturalmente, come lei capisce, per ovvietà e per facilità le raggruppiamo in grandi gruppi, no? Si possono classificare in base alla temperatura, in base all'effetto biologico terapeutico, però la classificazione, quella più frequente, è quella che si fa in base alle componenti chimiche che ha l'acqua, quindi si distinguono in acque oligominerali, solfure, salso bromoiodiche, solfate, bicarbonate, carboniche, ce ne sono veramente tantissime e spesso queste acque sono unite tra loro, cioè un'acqua salso bromoiodica può anche avere una componente solfurea, quindi migliorare, raddoppiare, se non andare in sinergia le proprie attività. Ci fa qualche esempio per capire che tipo di acqua è adatta per quale tipo di patologia o disturbo fisico? Le acque più comuni in Italia, ma non solo in Italia, anche insomma in tutta Europa, sono le solfure, le salso bromoiodiche, le solfate, le bicarbonate. Comunque le solfure sono quelle che hanno lo zolfo sotto forma di idrogeno solforato, cioè quelle che puzzano, quelle che hanno quel caratteristico odore. E per togliersi quell'odore di dosso ce ne vuole un po'. Queste si utilizzano sia per la bagnoterapia, cioè si fanno i bagni in vasca singola oppure in piscine collettive, sono efficaci, efficace e comprovata con studi clinici e l'evidenza medica per malattie croniche, soprattutto per le forme osteoartrosiche, quindi le cosiddette reumoartropatie croniche, quindi l'artrosi in particolare e tutte le malattie che sono simili e collegate, ma sono molto efficaci anche per certe malattie della pelle, difficili da curarsi, per esempio la psoriasi, la dermatite seborroica, certi tipi di eczemi, certi dermatiti atopiche. Le stesse acque possono essere utilizzate anche via aerosol, cioè via inalatoria, e hanno un'azione molto importante, efficace nelle patologie delle prime vie respiratorie che hanno una prevalenza di mucosità. Quindi sono le forme più catarrali. Queste sono le acque sulfuree. Poi ci sono le acque, per esempio, molto diffuse in Italia, sono anche le salso bromoiodiche, che sono acque che hanno una spiccata azione antinfiammatoria, antisettica, antiedema. Sono acque che sono utilizzate sia per inalazione, per quanto riguarda alcuni problemi anche qui delle vie respiratorie superiori e inferiori, ma sono molto efficaci, per esempio, nelle patologie linfatico-venose degli arti inferiori, perché vengono utilizzati in percorsi acquatici per la lavorazione antiedema e di miglioramento della circolazione locale. Altre acque, le oligominerali, le conosciamo tutte, sono acque che sono utilizzate soprattutto in terapia idropinica, che è un nome un po' difficile, ma vuol dire che si bevono sotto controllo medico a dosi particolari per ottenere degli effetti importanti sul nostro organismo. In modo particolare sono utilissime nelle tutte le problematiche infiammatorie, ma anche certo, di formazione di calcoli delle vie urinarie. Ma una settimana di bevute di un'acqua terapeutica, professor Bonsignori, ci aiuta a stare bene poi per un intero anno? È possibile che ci sia questo effetto di questo tipo? È un effetto che si verifica per molto tempo. Noi consigliamo perlomeno 2 cicli annuali e sicuramente l'effetto si mantiene a lungo, perché quell'effetto che si ottiene alle terme, quei 12 giorni che sono i classici della classica terapia termale che si ottengono, rimangono poi anche in seguito per molto certo, tempo. Certo, sì. Professor Bonsignori, ci fermiamo, c'è il traffico, poi andiamo velocemente agli altri 3 elementi naturali che troviamo con tutti i loro benefici alle terme. Cuore e denari. Si fosse fuoco arderei il mondo, si fosse vento lo tempesterei, si fosse acqua io l'annegherei, si fosse Dio manderella in profondo. Allora, professor Bonsignori, nostro specialista di idrologia medica e clinica termale questa mattina a Cuore Denari, per spiegarci tutti i benefici che possiamo trovare alle terme, abbiamo fatto questo ragionamento partendo dai 4 elementi naturali. Archiviato il discorso delle acque, andiamo al fuoco, inteso come calore. Cosa troviamo alle terme? La terapia col calore è una delle terapie più importanti alle terme, anche l'acqua, la bagnoterapia è una terapia che si basa sul calore e poi anche sui benefici specifici delle acque, il fango, calore sui benefici specifici del fango stesso. Per calore abbiamo anche la possibilità di sostare in particolari microclimi che si chiamano appunto microclimi da grotte. Cosa vuol dire? Vuol dire che esistono delle grotte termali, cioè dove la presenza dell'acqua termale provoca un intenso vapore acqueo. Quindi l'azione terapeutica l'abbiamo dopo aver sostato in queste grotte dove c'è una alta umidità e di un vapore appunto provocato dalle acque termali, si sosta in queste grotte e si ottengono appunto una serie di benefici, perché c'è la temperatura, l'umidità e abbiamo questa inalazione anche all'interno di questo vaporacqueo che si è creato, che appunto deriva sempre da un'acqua termale. Un bagno di vapore in realtà, qualcuno lo definisce simile al cosiddetto bagno turco, ma sono cose completamente diverse. Il bagno turco ha tutta una sua ritualità, questo è un bagno di vapore termale che ha un'azione specifica diretta e indiretta sul nostro organismo. Allora, intanto stavo controllando un po' i messaggi dei nostri ascoltatori. C'è Anna che ci scrive: le spa con piscine ma non termali servono a qualcosa? È competente anche in questo campo, professor Bonsignori? Sì, ci occupiamo anche di questo perché è naturale che è una situazione che ormai si verifica comunemente, quindi dobbiamo occuparcene. In questo caso si può parlare solo di idroterapia, si può fare qualcosa di idroterapia con acqua, ma non si può parlare di idroterapia termale. Stare in acqua calda, per esempio facendo riabilitazione dopo un piccolo trauma o oppure un intervento ortopedico, chiaramente è benefico. Fare della ginnastica in acqua, anche se non termale, è benefica. Si parla di idroterapia, naturalmente manca quella straordinaria capacità che hanno le acque termali di avere un'azione curativa, addirittura farmacologica. Ecco, questo non c'è. Quindi nelle spa si può ottenere un relax e anche alcuni benefici clinici, ma senza purtroppo l'aiuto che danno invece le acque termali e i mezzi termali. Intanto avete ancora a vostra disposizione il numero verde per le vostre domande ed osservazioni sulla cura termale. Qual è quella che avete in mente di fare, quella che magari avete fatto in passato e che vi ha regalato benefici che sono durati nel tempo, per cui avete deciso magari di ripetere qualche volta invece di regalarsi una vacanza tradizionale? Magari il miglior regalo per noi stessi è proprio una settimana in queste strutture. Ce ne sono di eccezionali in Italia, ben 380 centri termali, come ci diceva prima il professor Fausto Bonsignori. Sicuramente anche vicino a noi c'è la struttura che fa al caso nostro, e adesso andiamo al nostro terzo elemento naturale. ti respiro ancora, sai. Aria intesa come clima, che è uno degli elementi della talassoterapia, professor Bonsignori, ma aria anche come vapore aerosol. Beh, la talassoterapia è una branca della medicina termale, perché l'acqua di mare in realtà è l'acqua minerale più completa in natura. In questo caso si utilizza riscaldata in apposite vasche o piscine. Ma un elemento fondante della talassoterapia è proprio il clima, la terapia climatica. Pensate ai nostri bambini degli anni 30, 40, ma fino agli anni 60, che andavano nelle cosiddette colonie estive al mare. È toccato anche a me, professor Bonsignori. Andavano anche se ero bambina nel Medioevo, praticamente. Però, Questi bambini andavano al mare per fare una terapia climatica, cioè stavano un mese al mare e avevano il loro organismo rispondeva con degli effetti benefici. Quindi esiste una climatoterapia marina che si fa andando al mare a fare talassoterapia, ma non solo, c'è da tener conto che sulla riva del mare c'è una particolare ionizzazione dell'aria, cioè l'aria è ricca di piccoli ioni negativi che, al contrario del nome negativo, sono estremamente positivi per il nostro organismo. È la stessa aria che possiamo trovare in alta montagna o quella che sentiamo subito dopo un temporale, quando si dice l'aria sembra quasi elettrica. Ecco, questa è l'aria che ha molti piccoli ioni negativi. Per esempio, in un ambiente di lavoro, in un ufficio, in un abitacolo di un'auto, purtroppo questi ioni negativi sono molto scarsi e sono presenti molti ioni positivi grossi, che producono poi a lungo andare cefalea, irritabilità, tutta una serie di disturbi anche psicosomatici. Ecco, al mare si respira invece un'aria ricchissima di ioni negativi, che sono estremamente positivi, scusate il gioco di parole, ma è così, sono estremamente positivi per la nostra salute, a parte l'aerosol marino che si può respirare quando il mare frange sugli scogli. Diciamo che per le bronchiti invernali dei bambini, in genere i pediatri suggeriscono appunto che la miglior cura è portarli al mare quanto più possibile. Esatto. E invece a che cosa serve distinguere, professor Bonsignori, fra acque iposodiche e acque ipersodiche? Cioè, serve nella pratica medica, è una distinzione molto importante, perché quando per esempio questo tipo di acque le utilizziamo via aerosol, dobbiamo sapere che quelle ipersodiche vanno utilizzate per certe patologie e quelle iposodiche per altre. Le prime vanno utilizzate quando c'è una forma, per esempio parlo della sinusite o altre cose, delle prime vie respiratorie, quando ci sono forme catarrali. Le altre invece vanno utilizzate nelle forme cosiddette secche, cioè la secrezione è minore ma comunque esiste uno stato infiammatorio. Questo è un primo esempio di differenza. Un altro è quando si possono utilizzare, per esempio, nelle patologie linfatico-venose degli arti inferiori. È ovvio che un certo tipo di acqua ipersodica o iposodica hanno azioni completamente diverse. Un'acqua ipersodica determina anche, per il fatto osmotico, una movimentazione dei liquidi intestiziali all'interno dei nostri arti inferiori, migliorando sicuramente il circolo linfatico-venoso. Certo. Professor Bonsignori, le faccio sentire la domanda di Gianni dalla provincia di Palermo, che proprio puntualissimo interviene nello spazio dedicato all'acqua. Gianni, eccoci, buon anno intanto, nella bella buon Palermo. Buon anno anche a voi tutti, saluti per il professore e per tutta la redazione. La Grazie. Mia domanda era semplice. Siccome ho sentito parlare al professore di cure termali per questioni di artrosi, eccetera, eccetera, sì. Io siccome ho al ginocchio un'artrosi infiammatoria, mi hanno detto di... quando in effetti ho avuto benefici di mettere ghiaccio anche due volte al giorno. Dico, come si concilia il fatto del ghiaccio con la cura termale che c'è caldo? Questa domanda. Gianni, grazie. Allora, professor Bonsignori, tutto chiaro per lei? Chiarissimo. Gianni, mi ascolti, basta capire questo. Nelle fasi di una malattia cronica come l'artrosi esistono diverse fasi. C'è una fase acuta e subacuta e ci sono le fasi croniche. Ecco, nella fase acuta, quindi quando c'è l'infiammazione in atto, le terme sono controindicate e bene lei fa a mettere ghiaccio, mentre le terme sono indicate quando c'è una leggera remissione del dolore, quando l'infiammazione cala e quindi siamo in una fase di stabilità o una fase di subacuta. Quindi esiste una fase delle patologie croniche che è una fase acuta, dove le terme non si fanno, al limite è la cosiddetta fase farmacologica, mentre esistono lunghe fasi dove non c'è l'acuto, e quindi agiamo con le terme. Quindi questa terapia sequenziale tra terme e terapia tradizionale determina una straordinaria efficacia. Certo. E questa è la differenza netta. Spero di essermi spiegato bene, perché è molto importante precisare questo aspetto. Allora, professor Bonsignori, alle 11.58 io devo chiudere, quindi lei ha 2 minuti di tempo per spiegarci tutti i segreti a livello termale del quarto elemento, che è la terra. Io immagino il fango, la fangoterapia, si esaurisce qua il discorso. È straordinario. Brevemente, il fango non è altro che l'unione, la commistione di un'acqua termale con una sostanza solida, spesso inorganica come l'argilla, ma ci sono anche delle sostanze organiche come microflora, per esempio. Questo fango esalta in modo particolare quello che fa la balneoterapia, cioè perché nel fango maturo, perché questo matrimonio tra acqua e argilla deve durare almeno 6 mesi, nel fango maturo ci sono tutte le sostanze che sono presenti nell'acqua e vengono poste a contatto con il nostro organismo. Si applica classicamente uno strato di circa 10 cm nelle zone in cui vogliamo avere l'azione terapeutica, e abbiamo delle azioni straordinarie: migliora la circolazione, migliorano la microcircolazione, si allontanano le sostanze lesive della cartilagine, si producono sostanze protettive della cartilagine e si sviluppano e si modulano neuroormoni. Questo ci tengo a dirlo. Recentissimi studi hanno dimostrato che si produce beta endorfina plasmatica, si trova beta endorfina nel plasma, nel sangue, e si modula perfino la serotonina. Quindi pensate che questi due neuroormoni, uno è per la soglia del dolore, per il benessere, l'altro, la serotonina, è il classico ormone, anche quello del benessere. Pensate quali prospettive future ci sono anche per queste terapie. Benissimo. Professor Bonsignore, allora, questo argomento stamattina ha trovato molto consenso da parte degli ascoltatori, che ci stanno facendo i complimenti, hanno ascoltato con grande attenzione e soprattutto hanno apprezzato questa distribuzione dell'argomento per i quattro elementi naturali. Per cui si prepari, perché la richiameremo molto presto. Grazie intanto per essere stato con noi. Grazie. Le auguro una buona giornata e buon anno. Io intanto, siccome avevo anticipato che avremmo anche parlato della tenuta dei bambini in auto e quindi tutte le regole per guidare in sicurezza e garantire la sicurezza ai bambini, non abbiamo fatto in tempo, ma il dottor Antonino Reale dell'ospedale Bambino Gesù di Roma sarà con noi domani, visto che è anche la festa della Befana, per cui dei bambini soprattutto ci dobbiamo occupare, per cui tutto rimandato a domani. Intanto, per quello che riguarda Cuore e Denari, oggi abbiamo terminato, ci ritroviamo domani. Io stasera invece ritorno con voi a Focus Economia. Buona giornata a tutti.